Allora, Miriam, il discorso è molto complesso. Leggerò con attenzione quello che dice il dottor Saravalli. Tuttavia, faccio presente una cosa importantissima. La Costituzione della Repubblica Italiana è stata concepita per dare massimo risalto e insieme di plurimi diritti soggettivi e interessi tutelati attorno al principio personalistico. Cioè viene prima la persona e dopo la collettività, perché la collettività è fatta dagli individui, dalle persone. Tant'è vero che nell'articolo 32, che tutela la salute come diritto fondamentale, si dice prima dell'individuo e dopo si parla della collettività. Collettività che comunque è costituita da una sommatoria di saluti diverse dell'individuo. L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica contiene una riserva di legge rinforzata. Cioè nessun trattamento sanitario obbligatorio può comunque violare il rispetto che si deve alla persona umana, che detta in termini diversi significa il rispetto della dignità della persona umana. Dignità della persona umana che è al centro, come primo articolo, di diverse carte, non solo costituzionali di altri paesi, come per esempio la Germania, ma anche di carte sovranazionali. La dignità è al primo posto nell'elenco degli articoli. Il punto è questo. Che cosa si intende per dignità della persona umana? Allora, ci sono varie accezioni del significato del termine dignità. Tutti comunque concordano sul fatto che c'è una componente di questa dignità che non si costruisce nella vita, e c'è anche quella, perché col sudore della propria fronte e con la propria rispettabilità, onorabilità, insomma, con il contributo sociale, proprio personale, no? Si costruisce una propria dignità e la si onora. E poi c'è una componente di dignità che appartiene alla sfera dei diritti naturali, al jus naturalismo. Quindi si nasce con dignità a prescindere a priori, a prescindere da qualunque cosa venga detta dal diritto positivo. Quindi esiste un patrimonio intrinseco di valore che l'essere umano ha per natura, che va tutelato, va difeso. Quando i padri e le madri costituenti parlavano della difesa della dignità umana che nessuna legge può conculcare con trattamenti sanitari obbligatori, cosa intendevano? E l'ho già spiegato, sono già intervenuto. Esiste una relazione che è stata messa agli atti, una relazione redatta da una delegazione della Corte Costituzionale Italiana che diversi anni fa, se ricordo bene nel 2006, si recò in Polonia, ospiti del Tribunale Costituzionale Polacco e spiegarono l'assetto della nostra Costituzione, entrarono nel merito dei diritti, dei doveri dell'assetto costituzionale. E si parlò anche del trattamento sanitario obbligatorio. Nella relazione, i giudici della Corte Costituzionale, e questa non è una sentenza, non è un pronunciamento giurisprudenziale, in questa relazione i giudici dissero che laddove vi è discriminazione non può esservi dignità, rispetto della persona umana. Lo dissero loro. Questa è un'indicazione che agli atti la trovate nel sito della Corte Costituzionale, una relazione scritta. Non è un pronunciamento giurisprudenziale, ma è un'attestazione documentale che mostra come i padri, tra virgolette, costituenti eredi, cioè i difensori della Carta Costituzionale nel 2006, quindi i giudici della Corte Costituzionale, interpretavano questo rispetto della persona umana. Quindi mi viene da dire che questa è una considerazione mia, tutte le normative, tutte le leggi che operano una discriminazione violano il rispetto della persona umana e quindi sono inaccettabili. E torniamo alla questione principe. Non è l'obbligatorietà in sé del provvedimento, no? Che impone un trattamento sanitario ad essere pomo della discordia, ma è la declinazione di questo obbligo. Se una vaccinazione è resa obbligatoria e questo obbligo comporta addirittura, ai sensi di legge vigenti, una discriminazione sociale, una discriminazione di accesso, è evidente che viola il rispetto della persona umana. Poi c'è tutta la questione legata al contributo che dà la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la quale è un valore aggiunto, perché noi siamo cittadini italiani, ma anche cittadini dell'Unione Europea. Con la riforma del titolo V, avvenuta nel 2001, con referendum costituzionale, che ha approvato confermato la volontà del Parlamento di riformare la Costituzione della Repubblica, tra le tante cose è stata inserita una variazione all'articolo 117, per cui l'Italia è tenuta a rispettare gli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. Questo cosa vuol dire? Che dal 2009, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha riformato il Trattato sull'Unione Europea, la Carta di Nizza è equiparata a un trattato internazionale, a un trattato sovranazionale, la Carta di Nizza, recepita quindi dal Trattato sull'Unione Europea. Pertanto i diritti e le libertà tutelate dalla Carta di Nizza sono vincolanti giuridicamente per l'Italia e queste tutele, queste garanzie ampliano la tutela già garantita dalla Costituzione della Repubblica. Quindi tutte le sentenze giurisprudenziali sui trattamenti sanitari obbligatori precedenti al 2009, che è l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, quindi all'entrata in vigore di un vincolo giuridico per l'Italia rispetto alla Carta di Nizza, non hanno tenuto conto che ora i nostri diritti sono stati ampliati. Quindi tutte le sentenze della Corte Costituzionale degli anni 90 non conoscevano e non avevano ancora recepito bene il principio consensualistico. Il principio consensualistico è stato affermato da poco dalla giurisprudenza costituzionale e dalla giurisprudenza di Cassazione. È diventato prassi sanitaria perché? Perché c'è stata l'introduzione della Convenzione di Oviedo, a cui alcuni stati hanno aderito, tra cui l'Italia, che ha ratificato la Convenzione di Oviedo nel 2001, Convenzione di Oviedo degli anni 90, e soprattutto è entrata in vigore la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sancita un paio di volte, la prima volta a Nizza e poi a Strasburgo, dall'anno 2000 in poi. Siccome si va sempre verso un'ottica migliorativa della tutela dei diritti, non è accettabile giuridicamente parlando un'ottica peggiorativa nella tutela dei diritti civili e umani, è evidente che ora, con l'assimilazione e il recepimento del principio consensualistico, tutte le considerazioni che vengono fatte sulle sentenze della Corte Costituzionale degli anni 90 vanno aggiornate con il recepimento del principio consensualistico. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quando viene introdotta una nuova norma che impone un trattamento sanitario obbligatorio, anche quella norma risente del principio consensualistico. Per cui i vaccini si possono rifiutare, infatti sono obbligatori. Il decreto Lorenzin, poi convertito in legge 31 luglio 2017, numero 119, non ha introdotto la obbligatorietà dei vaccini, c'era già, ha solo inasprito le misure che obbligano, no, una persona al rispetto del calendario vaccinale obbligatorio dagli 0 ai 16 anni, dai 3 mesi di età ai 16 anni di età. Sono state inasprite le sanzioni ed è stato reintrodotto il meccanismo di discriminazione di accesso scolastico che era stato sospeso col DPR 355 del 1999, che aveva consentito anche agli inadempienti calendario vaccinale di frequentare la scuola dell'obbligo senza discriminazione di accesso scolastico. Dal 1999 al 2017 non c'era alcuna discriminazione di accesso scolastico nelle scuole dell'obbligo italiane e in questo periodo anche nelle scuole dell'infanzia non venivano operate discriminazioni di accesso scolastico. Questo periodo felice, perché comunque i vaccini continuavano a essere proposti, le percentuali di copertura comunque si assestavano attorno al 90, 92, 93%, questo periodo, tra virgolette, d'oro, dove la libertà di scelta, tra virgolette, era tutelata, è stata interrotta con il decreto Lorenzin numero 73, annunciato in pompa magna dal Consiglio dei Ministri a maggio 2017. Quindi il punto è questo qui. Cosa vuol dire rispetto della persona umana? Che la Costituzione della Repubblica ha posto come rinforzo, baluardo, per impedire che il principio personalistico e quindi il principio consensualistico deve essere rispettato, venga sbaragliato da un abuso di potere, di un potere dell'amministrazione dello Stato che tutto reifica e che tutto travolge. In questo tutto travolge c'è la dimensione soggettiva dell'individuo. Ma la Costituzione della Repubblica è stata pensata, costruita attorno al principio personalistico. Questo è un fatto storico che i docenti di costituzionalismo sanno benissimo. Lo stesso Oscar Luigi Scalfaro lo disse prima di morire in un'intervista memorabile. Il principio personalistico vuol dire che tutto ruota attorno all'individuo, al soggetto, e non a un'entità monolitica chiamata collettività, dove l'individuo e la soggettività è annegata e resa quasi anonima. Non so se mi sono spiegato. Quindi è l'interpretazione della norma che conta, ma soprattutto quell'ultimo comma dell'articolo 32, rispetto della persona umana, va letto in combinato disposto con l'articolo 2, che tutela i diritti umani a livello sovranazionale, per cui la Costituzione della Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, intesi come diritti dell'essere umano, che sono tutelati ovviamente a livello sovranazionale, quindi riconosce dei diritti che esistono da prima che la Costituzione della Repubblica venisse promulgata nel 1948. E va letto quell'ultimo comma dell'articolo 32 in combinato disposto con l'articolo 13, che dice che la libertà personale è inviolabile. E poi c'è il valore aggiunto della Carta di Nizza, quindi difesa dell'integrità psicofisica, articolo 3, e soprattutto articolo 52, rispetto del principio di proporzionalità. Nessuna legge di nessuno Stato che fa parte dell'Unione Europea può annullare un diritto civile umano, una libertà di un cittadino, fino al suo annullamento totale. Il nucleo essenziale di ogni diritto, di ogni libertà, deve essere salvaguardato. Non esiste, è illegittimo. Chi decide questo, se un provvedimento ha violato il nucleo essenziale di un diritto? La Corte Costituzionale. Qualora vi sia il dubbio da parte di un giudice addito che vi sia uno schiacciamento non proporzionale di un diritto di un cittadino dell'Unione Europea, la Corte Costituzionale ha già spiegato che gli atti devono essere rimessi al suo giudizio e sarà la Corte Costituzionale chiamata a capire se il diritto ulteriormente garantito dalla Carta di Nizza è stato violato o meno. Questo dice una sentenza della Corte Costituzionale di alcuni anni fa. Tutte queste cose vi ho detto nell'audio, le ho messe per iscritto nel mio blog, vaccinoconsapevole.blogspot.it. Spero di avervi aiutato a capire che la questione è complessa, ma è comprensibile. E tutto si gioca sulla difesa del principio personalistico, quindi un concetto bioetico giuridico. Inutile parlare di quote, di parametri, di aspettative, di linee guida, di statistiche. È sbagliato perché la medicina non è una scienza esatta, è un'arte, è ars medica. Tutti i medici lo devono tenere presente e il potere del legislatore medico e del medico scienziato devono avere un limite invalicabile. L'habeas corpus, ditelo a chi si arroga il diritto di farvi sentire sudditi. Non siamo sudditi, siamo persone, abbiamo una dignità e abbiamo impiegato secoli come civiltà umana per difendere e garantire e sancire il rispetto delle habeas corpus. Non fatevi ingannare da chi pensa di reificare il corpo umano e la coscienza umana a un prodotto biotecnologico. Tracciate un limite, un solco, un cerchio magico attorno a voi. Fatelo. Usate la testa, usate il cuore, ma soprattutto ragionate col vostro intelletto. Rendetelo puro come un cristallo, un diamante, collegatelo al cuore, guardate negli occhi chi non sa di che cosa sta parlando, non conosce il significato della terminologia che usa. La medicina non è una scienza esatta, è ars medica. Ci sono diverse sentenze della Corte Costituzionale che definiscono la medicina ars medica. Vuol dire che c'è sempre una problematica legata alla previsione dei fenomeni. Un fenomeno in medicina non è esattamente riproducibile. Per cui N persone trattate con un farmaco risponderanno in modo diverso. E quindi è anche inutile fare previsioni esatte perché non saranno rispettate. E quindi bisogna dare all'individuo, al soggetto, il potere di decisione sul proprio corpo. Perché il principio consensualistico è stato sancito, tutelato e messo per iscritto proprio per questo. Perché la medicina non può arrogarsi il diritto di diventare una nuova religione, una religione scientista, dispotica e che non rispetta l'individualità dell'essere umano, che è preziosa e unica. Ogni singola vita è preziosa e unica ed è sacra. Ciao a tutti da Luca Stantemburi.